iniziamo la nostra, continuiamo meglio, il nostro dialogo di stamani, anche se i temi di oggi sarebbero più esplicitamente di ordine ecclesiologico. Per iniziare vorrei aumentare le provocazioni. Stavo pensando, mentre l'accordo discorse o la concordia discorse fra sociologi e teologi, stavo pensando al modello proposto da Gehlen, Arnold Gehlen, quando distingue la non perfezione dell'uomo rispetto alla perfezione dell'animale, quella che lui chiama la perfezione dell'animale e l'imperfetta funzionalità dell'uomo, che sarebbe secondo lui la causa del perché l'uomo è progredito, nel senso che mentre l'animale dà risposte automatiche ad ogni stimolo, l'uomo ha bisogno di un momento di riflessione che lui chiama iatus. E Gehlen sottolinea questo fatto. Nell'iatus che cosa avviene? Avviene che l'uomo ritorna in un istante a tutta la sua storia biogenetica. Quando noi compiamo delle scelte, istintivamente ripercorriamo, per dare la risposta, torniamo fino al nostro mito originario, dice Gehlen, per poi proiettarci verso l'escaton. Questo meccanismo che Gehlen utilizza, e lo utilizza per dire che non abbiamo futuro, perché c'è impossibile in futuro utilizzare questo meccanismo che esige tempo, non più tempuscoli, e noi non abbiamo tempo, non abbiamo modelli per poter superare questo iatus. Questo meccanismo è particolarmente importante nell'analisi teologica, per esempio quando pensiamo al significato del rito. Cos'è il rito se non un ritornare alle origini per poi proiettarsi nel nostro e nel comune futuro? Se io rifletto al significato della messa, ho le origini, ho che ogni presenza alla messa va fino alla creazione del mondo e però va fino alla resurrezione e al giudizio finale. Ecco un punto comune della riflessione antropologica e della riflessione teologica. Gehlen ci dà l'esempio di un meccanismo che agisce in ambedue i settori. E mi ricollego a Gehlen perché lì tra lo stimolo e la risposta prevede un momento di riflessione. E facevo una considerazione. La Chiesa in questi ultimi 50 anni, nelle sue proposte ufficiali pastorali, ha utilizzato questo schema. Per esempio, quando nel suggerimento 249 della Mater Magistra, Papa Giovanni dice vedere, giudicare, agire, vedere, fermarsi al giudizio e poi agire. Capraro ha ripreso il discorso invece utilizzando un'altra tricotomia, progettare, agire e valutare. Alcuni teologi invece prospettano ascoltare, discernere, convertirsi. Ecco tre modi con cui si tenta di interpretare, primo, l'efficacia della riflessione sociologica ai fini dell'utilizzo ecclesiale, ecclesiologico, pastorale. Ecco un campo comune in cui un meccanismo di ordine analitico, riflessivo e critico viene applicato poi alla prassi ecclesiale. Non sarei d'accordo io su quello proposto da padre Pio Parisi, ascoltare, discernere e convertirci, perché questo non è un fenomeno puramente sociologico, è un fenomeno, diciamo così, teologico che attende al desiderio di ciascuno, non ha riferimenti poi di azione comune. Un'altra cosa importante, ho analizzato qualche anno fa nel convegno dello Sturzo come la gerarchia ha utilizzato recentemente gli strumenti dell'analisi sociologica. E ho fatto questa constatazione, è comparso un contributo dal titolo dall'homo economicus alla centralità dell'uomo. Ho esaminato tutti i documenti pontifici dal 1891, dalla Rerum Novarum, anzi dalla Libertatem, quella precedente, per vedere la consonanza tra il discorso pontificio o degli estensori dell'enciclica fatta proprio dai pontefici e i discorsi sociologici coevi. E ho visto che fino al 1931 il discorso della Chiesa è autoreferenziale. I pontefici citano soltanto altri pronunciamenti pontifici. Ma col 1900, col discorso, col radiomessaggio natalizio e pentecostale di Pio XII e soprattutto con le encicliche del Vaticano del dopo Vaticano II, innanzitutto i pontefici fanno un'analisi, una diagnosi del proprio tempo che è strettamente antroposociologica. E poi utilizzano anche prospettive che derivano da questa diagnosi, per cui utilizzando anche citazioni di sociologi. Per cui a un certo momento potremmo dire che la gerarchia, da una logica strettamente autoreferenziale, si è aperta a più ampie visioni che c'erano già in qualche maniera adombrate nella Rerum Novarum, quando fa la diagnosi in negativo dell'industrializzazione, in negativo. Però si sono poi aperte all'ottimismo con la Matere Magista, con la Pacem in Terris e con le ultime encicliche fino alla Centesimus Annus. In ultimo vorrei accennare che la lettera di Dianice prospetta anche un certo collegamento tra il destino del cristianesimo futuro, o come qualcuno dice, la fine della cristianità, e invece l'aumento della coscienza collettiva relativamente ai problemi del senso. Del senso del vivere e senso del morire. Tanto che qualcuno asserisce l'uomo del futuro sarà anche un uomo non cristiano, ma certamente sarà un uomo religioso se si interroga sul fatto da dove vengo e dove vado. Era una provocazione che abbandono subito per dare spazio ai vostri interventi. E spero, anzi, sto in attesa che qualcuno di voi intervenga immediatamente. E darò la parola proprio io a Martelli, anche se non alzato la mano, ma siccome stamani non è intervenuto, non si è guadagnato nemmeno il pranzo. Devi guadagnarti il pranzo. Tutto nostro, sì. No, in pratica il professor Burgalassi è il presidente della sezione sociologia della religione dell'Associazione Italiana di Sociologia e il professor Martelli è il segretario, per cui è davvero abbiamo una relazione, abbiamo dei discorsi lunghi alle spalle. Siamo l'istituzione. Esatto. E come segretario bisogna dire che si è davvero guadagnato non solo il pranzo ma molto di più, ecco. Il qui presente professor Caprao si sarà guadagnato un posto in paradiso perché ha dato un'attività enorme per questa giornata e per la prossima. No, si è guadagnato all'inferno, ma ha fatto nemmeno dormire. Beh, penso che questo clima di fraterna convivialità sia scatologico, sì, il segno della scatologia. Mi pareva che fosse il caso di portare un'esperienza di ricerca tra sociologi e teologi come contributo, un primo contributo, molti altri avranno fatto esperienze simili, penso, che potranno arricchire queste poche cose che mi appresto a dire. Un primo contributo all'interrogativo che tra i tanti interessanti messi stamattina, ma io mi focalizzerei soltanto su quello posto da Donati e poi anche da Garelli, cioè qual è la possibilità di apprendimento reciproco tra sociologi e teologi. E su Donati ha anche detto come trasformare concetti sociologici in teologici e anche viceversa, concetti teologici in sociologici. Ecco, allora gli porterei questo sollecitato anche dal professor Prandi, stamattina ne parlavamo insieme anche perché abbiamo condiviso questa esperienza, le